Il virus si riaffaccia, lo fa con un cittadino bengalese, lo abbiamo raccontato ieri, che ha percorso mezza Italia pur essendo sintomatico e positivo tra treni e taxi. E l'Italia chiude a 13 paesi, dalla Bosnia al Brasile, mentre si prepara a prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 dicembre di quest'anno. Intanto restano dense le tensioni politiche, l'apertura di Prodi a Berlusconi, l'apparente fine della grande rivalità rilancia l'ipotesi di un cambio di maggioranza in settembre. Questa di maggioranza deve comunque confrontarsi con e sulla vicenda autostrade, che pare essere alla stretta finale, e sui decreti sicurezza, per i quali ieri c'è da registrare l'importante sentenza della Consulta che boccia il divieto di iscrizione all'anagrafe per i richiedenti asilo. Ad aggiungere un po' di confusione, le sardine tornano in campo. Il virologo Pierluigi Lopalco sarà capolista in Puglia per Michele Emiliano. Emanuele Filiberto di Savoia annuncia un suo movimento. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia, è venerdì e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Primo messaggio di un ascoltatore al 349-238-6666: non se ne esce. No, ragazzi, non così, per favore, non così. Ci siamo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Venerdì 10 luglio, sono le 6:34 minuti, c'è Carmelo Larucella in regia, Anita Panizza in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza in redazione insieme ad Alessandro Marco Tulli, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori, e voi. Don't you know you're right? 349-238-6666, gli WhatsApp audio, le vostre voci, gli SMS, i WhatsApp scritti, poi siamo in diretta su Facebook. Insomma, sapete come e dove trovarci. Da cosa iniziamo? Un altro po' di confusione, forse anche tra destra e sinistra, in tutta sincerità, Vi avevamo raccontato in rassegna stampa l'altro ieri con Paolo Mieli che la Lega avrebbe preso la sua sede a Botteghe Oscure, storico luogo del PC. È stata addirittura la... si diceva via delle Botteghe Oscure per intendere la sede del Partito Comunista, Dice Salvini ieri, per lanciar là una provocazione, ma chiaramente l'ha fatto per far casino, per far imbestialire il PD. Ha detto... Siamo noi gli eredi di Berlinguer. I valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer: lavoro, fabbriche, operai, insegnanti, agricoltura, gli artigiani, adesso sono stati raccolti dalla Lega, quindi se il PD chiude in Botteghe Oscure e la Lega apre, per me è un bel segnale. E vabbè, ovviamente, rivolta... con Zingaretti che dice chiamate il 118. Detto ciò, la situazione politica resta complessa, come vi dicevo, piuttosto tesa. Uno degli elementi centrali è ovviamente la questione autostrade, ci torneremo tra poco, perché qua il Partito Democratico pare aver preso la via di dire... ok, andiamo verso la revoca della concessione. Si tratta comunque con autostrade, perché una delle ipotesi è questa. Il punto è che la revoca della concessione rischierebbe di portare il tutto ad un contenzioso legale lungo e molto costoso. Rischierebbe di vincere autostrade, rischierebbero di vincere i Benetton e di strappare una discreta quantità di denaro allo Stato. Dunque si sta ipotizzando cosa? Che cedano la maggioranza. di autostrade e questa maggioranza venga acquisita, si faccia un aumento di capitale ed entrino la Cassa Depositi e Prestiti e F2I. E poi c'è tutta la questione del ponte, naturalmente, sul quale dice il presidente della regione Totti, da parte del governo o un'omissione o una menzogna. Se quella concessione non poteva essere ritirata perché, ahimè, è costruita in modo tale da impedire ogni margine d'azione al governo, il governo non avrebbe dovuto ripetere ossessivamente di volerlo fare imbrogliando i cittadini. Se invece quella concessione era ritirabile e, cosa che sa solo il governo, le malefatte compiute nella sua gestione erano così gravi, avrebbe già dovuto farlo. In ogni caso scelga lei, o si è peccato di omissione o si è peccato di menzogna, ma un peccato c'è sicuro. Da dire, adesso non è per assolvere il governo, per carità, anche perché poi il governo dopo il ponte Morandi vuol dire due maggioranze diverse, vuol dire i tre principali partiti della, che rappresentati in questo momento in Parlamento, però se omissioni ci sono state nei controlli, soprattutto sono omissioni che vanno avanti da almeno 20 anni, questo tocca dirselo. Insomma, più d'uno ha chiuso un occhio. Cara Agnese Pini, direttrice della Nazione, come stai? Agnese, buongiorno, bentornata. Buongiorno a voi. Allora, come lo vedi Emanuele Filiberto di Savoia? No, scherzo, non ti voglio coinvolgere su questo. Ringrazio. Poi magari la voce la facciamo sentire. Invece, sulla vicenda autostrade è paradossale, no? Perché noi abbiamo degli audio, l'abbiamo fatti sentire ieri, adesso non li rimettiamo. Il Presidente del Consiglio che nel novembre dell'anno scorso, anzi, allora, il Presidente del Consiglio a 72 ore dal crollo di Ponte Morandi dice procederemo alla revoca della concessione. In novembre del 2019 dice siamo in dirittura d'arrivo. Siamo, poi perché c'è stato il Covid in mezzo, però è luglio e stiamo ancora qua, forse finalmente la stretta finale, mi pare, Agnese. Io ci vedo due aspetti, uno direi più sostanziale e uno più politico. Quello più sostanziale è legato al fatto che c'è un problema infrastrutturale nel nostro paese che è partito clamorosamente col ponte Morandi, ma poi insomma sono crollati in questi altri mesi che ci separano da quel primo straordinario crollo, altri due viadotti, e questo ci racconta di una situazione della nostra rete viaria più importante, no? Quella più nevralgica, che è in condizioni pessime e pietose, e da cui bisogna comunque partire, no? Nel quale ragionamento complessivo. C'è poi tutto l'assetto politico in cui qui la partita principale, insomma, che cosa ci racconta? Intanto del nostro solito governo immobilizzato, no? Sui suoi dossier più caldi e quindi anche sul dossier autostrade, con un PD che alla fine fa la solita manovra di avvicinamento ai 5 Stelle dettata dal buon senso, dalla prudenza, però poi insomma si cerca di allinearsi per non spaccare o spappolare la coalizione di maggioranza, e lo sta facendo su questo tema come anche su altri temi. E poi 5 Stelle, che sono stati in tutta la partita autostrade davvero il movimento protagonista, no? A livello politico della gestione e anche della propaganda, chiamiamola così, perché è stata così in molti momenti rispetto a questa vicenda, quindi a colpi di... Però comunque molto coerenti. Mi sembra che su questo tema, Agnese, se posso dire, due i partiti più coerenti sono stati il Movimento 5 Stelle da una parte e Italia Viva dall'altra, la quale ha sempre detto: guardate, la concessione ai Benetton non si può togliere. Ieri abbiamo avuto ospite l'ex viceministro dello sviluppo economico della Lega, Dario Galli, e per tirargli fuori ci abbiamo messo 5 minuti e non siamo riusciti a tirargli fuori qual è la posizione della Lega sulla revoca della concessione, perché è radioattiva, la cosa è radioattiva dal punto di vista politico. Ma anche dentro 5 Stelle ci sono due correnti, no? Una più oltranzista, che dice o revoca o niente, che è quella di Battista, una più morbida a cui potrebbe andare bene per esempio appunto anche una rimodulazione delle quote di Benetton dentro dentro autostrade, proprio perché revocare tout court la concessione diventerebbe a livello, diciamo, finanziario, no? Per i contraccolpi possibili che dicevi anche tu all'inizio, totalmente ingestibile. Quindi questo sì, questa coerenza almeno di facciata sui 5 Stelle c'è stata assolutamente, però poi abbiamo scoperto per esempio questa lettera del mandata ai tempi in cui il ministro era ancora Toninelli, in cui si faceva presente che la concessione del ponte sarebbe tornata ad autostrade qualora non ci fosse stato sì. un altro, cioè formalmente al concessionario della 10, che nella fattispecie però è autostrade, c'è poco da fare sì. Tra l'altro Toninelli sarà nostro, lo segnalo, scusa, solo agli ascoltatori, alle 8:20 Toninelli sarà nostro ospite, ovviamente gli chiederemo conto anche di questo. Prego Agnese. A fronte, diciamo, di una linea abbastanza compatta nella comunicazione, come hai detto, poi gli atti sono stati diversi, perché in questi due governi l'unico partito che ha continuato a esserci nella maggioranza sono stati proprio i 5 Stelle, e questi processi di revoca o di riduzione, insomma, non sono stati fatti. Forse si riusciranno a fare ora, appunto, con un'altra strategia che non è quella della revoca, ma quella della rimodulazione delle quote. Quindi ecco, poi tra il dire e il fare, inevitabilmente, vista la partita così ingarbugliata e complessa, una partita da cui non si poteva uscire a colpi di slogan, ovviamente. Sì, certamente. Detto ciò, Agnese, mi sembra che in questi due giorni, naturalmente senza dare una valenza politica, per carità, però in due giorni, con due decisioni, la Corte Costituzionale arriva a dare, non dico una mano alla maggioranza, però certamente a facilitare una serie di cose, perché se da una parte con la sentenza nella quale dice che era illegittimo, cioè era legittimo consentire ad Autostrade di partecipare alla ricostruzione del ponte l'altro ieri, e ieri arriva con una sentenza a dire che la parte dei decreti sicurezza su che vieta l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo è illegittima, ebbene, su due dossier piuttosto caldi per la maggioranza, arriva e mette una parola che forse può aiutare. Non a caso la vicenda autostrade si è sveltita piuttosto rapidamente in queste ultime ore. Non c'è dubbio, soprattutto sul primo caso, appunto, su quello di autostrade, però ecco, ci arriva veramente all'ultimo tuffo possibile, cioè a ponte già ben costruito, sì. Cioè, e siamo proprio al salvataggio in corner su questo dossier in particolare. Suona quasi come un'operazione obbligata per far uscire la maggioranza da un pantano che sì. avrebbe conseguenze invece quelle sì ancora peggiori del problema, ecco, per la politica, per l'accordo, per la tenuta della maggioranza, per tutto, insomma, in un momento che, insomma, come sappiamo, non è esattamente semplice per il paese. Direi proprio di no. E poi sì, poi vabbè, tutta la vicenda ve la risparmio oggi, ragazzi, magari ci torniamo dopo in rassegna stampa, la vicenda Prodi, Berlusconi in maggioranza, perché no, la grande rivalità che finalmente arriva a compimento, e allora si ipotizza Berlusconi senatore a vita, Prodi al colle, non ve la sto siamo a raccontare. Sì, guarda, mamma mia, traffico. È partita l'offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo sulle azioni UbiBanca. Fino al 28 luglio gli azionisti UbiBanca potranno ottenere 17 azioni Intesa San Paolo ogni 10 azioni UbiBanca, con un premio del 27,6% rispetto al valore di UbiBanca alla chiusura di borsa il giorno precedente il lancio dell'offerta. Il futuro oggi più che mai è di chi sa costruirlo insieme. Ecco perché crediamo in un'unione fondata su solidità patrimoniale, redditività e generazione di valore per azionisti, clienti, famiglie, imprese e dipendenti. Per maggiori informazioni visita il sito gruppo.intesasanpaolo.com o chiama il numero verde 800 595 471. Prima dell'adesione leggere attentamente il documento di offerta disponibile sul sito internet gruppo.intesasanpaolo.com o presso l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni. Mentre per parlare di cose serie, mentre si anquatra Prodi e Berlusconi come 20 anni fa, il giornale diretto da Agnese Pini, La Nazione, ci racconta per esempio che ad agosto, e poi magari ci torniamo in rassegna, vi do qualche dettaglio in più. Ad agosto a Firenze il 70% dei locali non aprirà perché c'è troppa poca gente, il 70% in una delle città d'arte più importanti di questo paese, forse una delle più attrattive insieme a Venezia. E per continuare a parlare di cose serie, c'è questa vicenda dolorosissima e che vogliamo capire se accende un riflettore su un fenomeno più vasto, la vicenda dolorosissima dei due ragazzini di 15 e 16 anni che a Terni sono morti dopo aver ingerito del metadone comprato da un tossicodipendente, pagato 15 euro, da quel che si è riuscito a ricostruire erano convinti di aver comprato questa che viene chiamata la droga dei trap, per un mix chiamato Purple Drunk, e l'abbiano ingerito e poi appunto sono morti. Siamo in linea con Guido Faillà, cioè che è direttore del coordinamento SERD dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani e presidente della Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti dei Servizi e delle Dipendenze. Buongiorno Faillà e benvenuto. Buongiorno. Quanto è vasto il fenomeno? Ma il fenomeno è vasto e viene anche specificato nella relazione al Parlamento sul fenomeno delle droghe, cioè l'abbassamento dell'età e l'uso di farmaci per i sostitutivi per quanto riguarda proprio la, diciamo, la fascia giovanile. Perché questo Purple Drink sarebbe in sostanza un mix di codeina e qualcos'altro, quindi di un medicinale in sostanza, insieme a qualcos'altro, questo sarebbe. Sì, sì, ovviamente noi abbiamo tutta una serie di allerte droghe che vengono all'Istituto Superiore di Sanità, dove ci dicono chiaramente quello che gira sul territorio, e abbiamo tutta una serie di sostanze pericolosissime come il fentanilo, che veramente è associato ad altri farmaci come la codeina, che è sempre un oppioide, e il metadone, che è sempre un derivato oppioide, fa questo mix che giustamente e difficilmente va eliminato nell'organismo senza non lasciare dei danni particolari, e quando l'effetto si moltiplica, perché il problema dell'associazione di questi farmaci è che noi abbiamo una moltiplicazione degli effetti indesiderati di queste sostanze, può portare appunto all'arresto cardiocircolatorio, può portare all'overdose vera e propria da oppioide, quindi questo è pericolosissimo, è un dato che veramente emerge. E noi non dobbiamo dimenticare che proprio a Firenze c'è stata la morte dei due fratelli, sì, del Belgio, proprio da un mix di farmaci, la benzodiazepine più analgesici potentissimi, che vengono venduti anche con ricetta bianca, cioè veramente farmaci come l'ossicodone, il clomorfone, che veramente vengono in qualche modo dati per semplice problematiche dolorifiche, sì, legate ad patologie, a queste situazioni, ad altre patologie, e poi eventualmente vengono rivenduti. La vorrei coinvolgere su un'ultima cosa, Faillace, ed è la questione del metadone. Me lo scrive anche un ascoltatore, dice: ma come è riuscito costui a vendere il metadone quando al CERT lo devi prendere al momento? E qua c'è un pezzo dell'inchiesta che dice forse, insomma, ci sono, su questo fronte c'è qualche buco nel sistema dei CERT, Faillace. No, è praticamente il periodo che abbiamo affrontato, che ha permesso, visto che praticamente è stato limitato l'accesso ai servizi, è stata data la possibilità di affidare il metadone per periodo, per una settimana, due settimane. Questo praticamente, questo periodo particolarmente serio, diciamo, è stato affrontato in questo modo per evitare un assembramento di soggetti che facevano terapia giornaliera. Pensiamo che ci sono sette che hanno anche 200-300 persone che vanno a servizio ogni giorno per assumere il farmaco. Questo sicuramente è un elemento che deve essere considerato. La città non ha provocato anche questo. Quindi può darsi che ci sia stato un affidamento appunto di una settimana Sì. Dovuto sostanzialmente al Covid, ci è al chiaro. COVID, sì, per evitare, praticamente, essendo soggetti fragili, essendo soggetti che praticamente non si sono fermati durante il Covid, è stato fatto questo tipo di, è stata data questa indicazione anche proprio noi del SES. Abbiamo fatto due disposizioni, una fase 1 e una fase 2, dove di questo tipo raccomandava per evitare gli assembramenti. No, è chiarissimo. Grazie Guido Faillace. Agnese Pini, insomma, Faillace ha ricordato anche il caso di Firenze, giustamente, che è un pezzo di questo racconto. Sì, sono due storie effettivamente che hanno più di un punto comune, che ci raccontano poi. Ora, al di là di questo caso contingente legato anche alla distribuzione del metadone, no? Che è un altro aspetto importante della vicenda, dei risvolti che stanno prima, no? di questa vicenda sulla gestione dell'emergenza dipendenze durante il Covid, che è un temone di cui si è parlato poco perché ce ne sono stati altri più apparentemente urgenti. Ma poi ci racconta anche come sono, come agiscono e chi prende le droghe, no, degli anni 20 del nuovo millennio, e appunto questi ragazzi così giovani, perché poi è la giovane età la cosa che più ha fatto impressione, no, di questa storia, ragazzi davvero poco più che bambini, e che non appartenevano certamente allo scenario dei ragazzi tossicodipendenti, con dipendenze annose, che non erano riusciti a uscire dal tunnel della droga, no? Racconti che appartengono ad altri anni. Ecco, oggi ci troviamo di fronte a nuovi pericoli e a fenomeni del tutto nuovi, quindi quasi una convivenza, siamo in chiusura veramente, quasi una convivenza con la normalità, e questo è un fronte su cui riflettere sicuramente. Grazie ad Agnese Pini, direttrice della Nazione. Ciao Agnese, alla prossima. Guido Faillace, direttore del coordinamento SERD di Trapani, presidente della Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze. GR24, ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna stampa, tra poco dopo il GR con la rassegna stampa, e tra le altre cose questa storia pazzesca sulla quale il quotidiano Avvenire apre: figli dati impegno per pagare i debiti, l'usura sta arrivando a questi livelli. A tra poco.